Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, comincia la stagione delle vacanze e dei viaggi, allora vi voglio proporre un libro sul viaggiatore per antonomasia, Marco Polo, che ritorna nella nuova edizione di un libro dedicato a lui, intitolato appunto Marco Polo, di cui è autore Vito Bianchi, un archeologo esperto in particolare dell'intreccio dei rapporti culturali tra Europa, Medio Oriente ed Oriente. Sottotitolo è Storia del mercante che capì la Cina, è pubblicato dalla Terza, 372 pagine. Pagine 9 euro. Certo non servono presentazioni per Marco Polo, ricordiamo che nacque a Venezia nel 1254 e che nel 1271 parte con il padre Nicolò e lo zio Matteo per il Katai. E lì conquisterà la fiducia dell'imperatore Kublai Khan, arriverà a Pechino, girerà per la Cina e per l'Asia, tornerà a Venezia solo nel 1295. Poi sarà fatto prigioniero dai genovesi e in quell'occasione, in quella attività, scriverà con Rustichello Il Milione per morire poi nel 1324. Una vita che è un romanzo e come un romanzo la tratta appunto Vito Bianchi in questo libro che ci permette di accostarci alla vita di questo straordinario personaggio che consentì all'Occidente di conoscere meglio un continente e una civiltà pressoché misteriose per l'epoca, la cui geografia era ancora quella imprecisa tramandataci dai classici se non addirittura dalle sacre scritture. Insomma, un personaggio affascinante che noi siamo riusciti a intercettare per un'intervista impossibile, alla quale si presta il sindaco di Venezia, Massimo Cacciari. Buongiorno, messer Polo. Buongiorno. Signor Polo, si sarebbe mai aspettato di ritrovare tanti cinesi proprio nel suo paese, lei che fece tanti chilometri per andarli a scoprire? Ma sì, perché se sono andato a scoprirli era proprio per tentare anche di attrarli, no? Non c'è nessuna visita che non pensi in qualche modo di essere in qualche momento ricambiata, quindi cioè, è sempre a due dimensioni il rapporto. Da questo punto di vista quindi la sua missione è stato un successo? Sì, anche se ho dovuto aspettare parecchi secoli, ma insomma è stato un successo. Ma quando lei tornò dalla Cina e ritornò a Venezia, si sentiva ancora del tutto veneziano o un po' più meticcio? Ma guardi, Venezia è un po' meticcia da sempre, è una città che sta sul mare, che ha nel mare, nei rapporti attraverso il mare, tutto il suo destino, necessariamente è in relazione, e una persona che è in relazione è aperta ad ogni tipo di contaminazione, ad ogni tipo di influenza, quindi non è una questione, come dire, di razza, di lingua, di religione, è l'essere in relazione. Venezia è diciamo ontologicamente in relazione e non potrebbe vivere se non in relazione, non è un essere che non sia un interesse. E Venezia è così, e basta vederne anche la forma urbis per capirlo, no? La contaminazione tra stili, tra linguaggi, tra forme è talmente evidente anche nella sua stessa configurazione architettonica. Basti pensare a una cosa come Piazza San Marco, c'è il bizantino, c'è il gotico, e poi sono certo che dopo la mia morte ci saranno altri stili ancora, e così via. Ma questo essere in relazione, certamente Venezia è stato al centro di questo atteggiamento e di questa apertura, però non sempre condiviso da tutti, se ne è accorto di questo nel giorno d'oggi? Non è, sì, certo, mentre ero vivo, diciamo così, il 99% dei miei concittadini avevano questo atteggiamento, perché le loro stesse fortune economiche erano collegate a questo atteggiamento, non potevano pensare di avere fortuna economica senza l'essere in relazione. Poi chissà, può venire un'epoca in cui invece di avere nel mare le proprie fortune, i miei concittadini vivono un po' di rendite sedentarie, si chiudono in se stessi, potrebbe darsi che comincino ad avere paura anche dello straniero. Potrebbe darsi che vengano dei politici che invece di dire navighiamo dicono difendiamoci, e chi lo sa, questo è il futuro, è nelle mani di Dio. Temo che questo possa avvenire, mi auguro di no, ma certamente è una possibilità che in questa città esiste come nelle altre, soltanto che se questa città dovesse desistere dal suo destino di essere una città che naviga, una città che commercia, una città che è in relazione, cesserebbe di essere Venezia. Ma oggi che si naviga con tanta maggiore facilità, che si sono scoperte le nuove terre, insomma Venezia sicuramente ha cambiato il suo ruolo e la sua collocazione anche, per così dire, psicologica nel mondo. Allora oggi che ruolo può svolgere la sua città? Sì, una cosa è una città che è internazionale perché ospita più o meno passivamente persone di tutte le terre, di tutte le razze, di tutte le regioni. Un'altra cosa è essere Venezia. Essere Venezia non è soltanto una città che ospita, è una città che si avventura, è una città che si apre, è una città che si innova, è una città che è aperta appunto non soltanto ad ospitare per una notte o due notti uno straniero, ma una città che in qualche maniera ama lo straniero, non semplicemente che lo accoglie come il turista, ma è una città che commercia con lo straniero, che fa affari con lo straniero, che si trasforma attraverso i linguaggi e le culture altre. E io temo che questo che era il genio di Venezia ai miei tempi possa venir meno. Un'ultima domanda, signor Paul, oggi lei è un po' anziano, ma se dovesse ripartire, con che spirito lo farebbe? Ah, guardi, lo farei esattamente con lo spirito che avevo allora, è identico, aperto alla meraviglia. Il mio libro si chiamava Il libro delle meraviglie, poi malamente chiamato Il milione, ma Il libro delle meraviglie, cioè viaggiare vuol dire incontrare l'altro, vuol dire sapersi meravigliare. E in questo senso ero molto amico di filosofi veneziani che parlavano appunto della meraviglia come della vera origine di ogni filosofia e di ogni scienza. Se manca questa meraviglia, se manca questa curiosità, se manca la capacità di meravigliarsi, se di fronte all'altro, al diverso, invece di meravigliarsi e di incuriosirci e di vedere chi è, prendiamo paura, Venezia è finita. Bene, grazie signor Polo. Grazie a voi. E Massimo Cacciari, che come ricorderete è filosofo e insegna all'Università San Raffaele di Milano, ha pubblicato di recente con Adelphi Hamletica, 134 pagine, 18 euro. Questo lo definisce lo stesso autore un saggio tripartito in cui si parla di tre mitiche figure della letteratura, una immaginaria e due reali, e cioè Amleto, Kafka e Beckett, e tre figure di cui Cacciari trova un filo conduttore nel tema dell'agire. E a chi voglia leggere Il milione segnalo le ultime due edizioni, quella di Tea che costa 12 euro e quella nell'originale redazione latina con il testo poi italiano, pubblicato da Guanda, 708 pagine, 38 euro. Rimaniamo in tema con il libro per i più piccoli. Il confettino. Vi propongo Io sono Tie Zhu e vivo in Cina. È una nuova collana pubblicata dal Touring Club Touring Junior. L'autrice è Elena Bozzola, sono 72 pagine, 12 euro ed è un libro illustratissimo da Amandine Più che ci fa conoscere la Cina, le sue abitudini, ma anche la sua cucina, la sua lingua e la sua scrittura, con tanto di guida. L'ideale per chi deve portare dei ragazzini in Cina. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, restiamo dunque a Venezia con una guida d'eccezione, Ugo Pratt, che con Guido Fuga e Lele Vianello pubblica Corto Sconto, la guida di Corto Maltese alla Venezia nascosta, è pubblicato da Rizzoli d'Isar, 230 pagine, 17 euro. È una guida in tutte le forme questa, compresa di indirizzi utili, di indirizzi celebri, di dizionarietto, ma soprattutto piena di tanto amore per molti itinerari magici e appassionati in compagnia appunto di Corto Maltese. Da tre luoghi magici e nascosti, che qui non vi rivelo, si dipana questo percorso nella città ricco di illustrazioni, di divagazioni, di riferimenti colti, di curiosità, e il tutto per costituire uno strumento davvero indispensabile per gli innamorati curiosi di questa straordinaria città. Tra gli indirizzi illustri ricordati nella guida di Corto Maltese c'è anche quello di Goethe, che fu a Venezia per la prima volta nel 1786. In occasione di quel viaggio, che era iniziato il 3 settembre, Goethe scrisse un giornale del viaggio in Italia per la signora von Stein, che adesso, curato da Emilia Guth, ritorna per le edizioni Robin, 158 pagine, 12 euro. Quel viaggio l'avrebbe portato fino a Roma, dove questo diario si interrompe il 28 ottobre. Conosciamo dal celebre viaggio in Italia di Goethe l'emozione che il poeta provò in questa occasione. E questo libro, sia pure in forma più sbrigativa, per così dire, ce ne dà ulteriore conferma, come testimoniano queste righe dedicate appunto alla città lagunare. Su Venezia è già stato detto e stampato tutto ciò che si può dire. Quindi posso aggiungere solo poche impressioni personali. Anche qui il popolo è l'idea fondamentale che mi assilla. Grande massa. È un'esistenza istintiva dettata dalla necessità. Questa gente non si è rifugiata su queste isole per divertimento. Non fu la volontà che spinse altri ad associarsi ai primi. Il loro sito fu reso favorevole da un caso fortunato. Fu per buona sorte che in seguito diventarono accorti, mentre tutto il mondo settentrionale era ancora in preda all'irrazionalità. La loro moltiplicazione e la loro ricchezza ne furono una logica conseguenza. La gente intanto si affollava sempre più. Sotto i loro piedi la sabbia e la palude diventavano roccia. Le case cercavano aria come alberi chiusi. Dovettero guadagnare in altezza ciò che non potevano avere in larghezza. Essere oculati con ogni palmo di terra e sin dai primi giorni pigiati in locali ristretti. Non accordarono alle vie maggiore larghezza di quella necessaria per dividere casa da casa, dando agli uomini la possibilità di passaggio e, d'altronde, l'acqua serviva da strada, piazza, passeggiata. Il veneziano dovette diventare, insomma, un essere nuovo e perciò anche Venezia non può essere paragonata che a se stessa. Come il Canal Grande non può essere paragonato a nessuna strada del mondo, così lo spazio che si trova dinanzi alla piazza di San Marco a nulla può essere contrapposto. Rimanendo a Venezia ci trasferiamo al giorno d'oggi con un giallo di Fulvio Ervas, veneziano o quasi lui stesso, che pubblica il terzo appuntamento con l'ispettore Stucchi. Il titolo è Buffalo Bill a Venezia, è pubblicato da Marco Si Marcos, 286 pagine, 16 euro. In questo libro i turisti non vengono trattati con la stessa attenzione con la quale veniva accolto Goethe, anzi molti vengono misteriosamente ammazzati. E la città reagisce quasi con divertita simpatia a questa strage di turisti, come testimoniano le lettere al Gazzettino che manifestano un rimpianto per la vecchia Venezia e una certa idiosincrasia per l'invasione dei turisti che fa da sfondo appunto all'inchiesta nella quale si deve appunto tuffare il commissario Stucchi, che in questa occasione riassapò e riscopre la città. Sentite per esempio le prescrizioni che un misterioso doge Giorgio Baffo emette, sempre sul Gazzettino, per regolare il traffico dei turisti in una delle lettere al quotidiano. Cittadini, è urgente per la salvaguardia della città che 1. Sia severamente proibito recarsi a Venezia con macchine fotografiche munite di rullino o scheda propri. Questi vanno acquistati nei negozi in loco, comprensivi di imposta per l'uso delle immagini della città. Tale imposta andrà a costituire un fondo per il contrasto del degrado cittadino. 2. Il numero annuo massimo di turisti sia fissato in modo tale che siano giornalmente metà dei veneziani residenti. 3. I turisti vengano sottoposti a selezione da apposita commissione comunale e iscritti in una graduatoria mondiale. 4. L'iscrizione a tale graduatoria sia obbligatoria, pena l'impossibilità di visitare Venezia. 5. La graduatoria sia a scorrimento, con divieto di ritorno a Venezia entro il quinquennio. 6. Possano cedere il diritto d'accesso turisti selezionati che abbiano tuttavia fatto esplicita rinuncia, pagando una tassa comunale direttamente proporzionale alla distanza tra il paese del richiedente e Venezia. 7. Il peso massimo tollerabile dal suolo veneziano, per effetto della presenza dei turisti, sia di 2 milioni e 100.000 kg giornalieri. 8. La dieta giornaliera del turista non superi le 2.000 kcal se maschio, le 1.600 se femmina e i bambini, se obesi, a digiuno. Dopo quella di Corto Maltese e di Venezia vi propongo un'altra guida insolita. City Box London Guida per disorientarsi in città, costa 20 euro, edizioni Bas Bleu. E questo è precisamente un libro oggetto dalla foggia particolare, giocato molto sulle illustrazioni, dove non troverete alcuna indicazione su monumenti e ristoranti, ma tante immagini e qualche consiglio ironico decisamente assurdo. Insomma, una galleria di schizzi e di situazioni più per introdurci o per ricordare il clima della metropoli inglese. Ma torniamo ai viaggi, innanzitutto col viaggio più straordinario che nessuno di noi ha mai potuto fare, che ricorderemo il 21 luglio, quando cade il 40° anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna. E per celebrare questa ricorrenza possiamo leggere il libro di Oriana Fallaci, Quei giorni sulla Luna, pubblicato da Rizzoli, 214 pagine, 10 euro. Il libro nasce da una lunga permanenza della giornalista Houston e Cap Kennedy, dove la NASA preparava il lancio che avrebbe portato appunto il primo uomo sulla Luna. E di quella permanenza Fallaci ricavò un libro destinato soprattutto ai ragazzi e ora riproposto, che è un lavoro di scavo analitico e prezioso che ci fa incontrare i personaggi principali di quella straordinaria avventura, da Wernher von Braun ai tre astronauti che parteciparono alla missione e che qui ricordiamo, Neil Armstrong e Edwin Aldrin che scesero proprio sulla Luna e Mike Collins che li attese nell'astronave. Il libro è una prova di grande giornalismo, ma anche di grande umanità, capace di far risaltare il contrasto tra l'eccezionalità dell'impresa e l'assoluta normalità, quasi banalità anzi, delle vite e dell'ambiente nel quale matura questa impresa. Sentite una testimonianza di questa capacità della scrittrice di trasformare in epica questa banalità nelle righe che vi propongo. E così giungemmo al pomeriggio fatale, quello in cui due uomini del nostro pianeta avrebbero tentato di sbarcare sulla Luna. Erano due uomini che nessuno aveva scelto perché migliori degli altri, e il loro unico merito consisteva nell'essere bravi piloti, ma non migliori di altri. Umanamente non valevano granché. Privi di fantasia e di umiltà, prima della partenza si erano mostrati arroganti. Durante il volo non si erano resi simpatici. Mai una frase dettata dal cuore, un motto scherzoso, un'osservazione geniale. Avevano visto la Terra che si allontanava centinaia di migliaia di miglia e tal privilegio s'era risolto in un'arida lezione di geografia. «Vedo a destra la penisola dello Yucatan, a sinistra la Florida!» Qualcuno li aveva definiti «unmanned crew», equipaggio senza uomo. «Unmanned» è il termine che si usa per le astronavi che non hanno persone a bordo. Amareggiato e deluso dal loro silenzio, li perdonavi solo sapendo che avevano paura, ma neanche ciò bastava ad amarli, mentre l'ora si avvicinava. Poi, d'un tratto, scoppiarono le 3 del pomeriggio. D'un tratto, come questo viaggio che avevamo atteso per anni e a cui tuttavia non eravamo ancora preparati. All'improvviso ci accorgemmo che l'ora era giunta e tutto cambiò. E non ci importò più che la Luna rappresentasse un volgare scopo politico, non ci importò più che i due uomini scelti dal caso fossero antipatici. La Luna divenne qualcosa di religioso e i due uomini divennero qualcosa di santo. Un simbolo di tutti noi, vivi o morti, buoni e cattivi, stupidi e intelligenti. Noi pesci che cerchiamo sempre altre spiagge, senza sapere perché. Un viaggio invece che coinvolge sicuramente moltissime famiglie italiane in questo periodo, quasi un rito per tanti ragazzi, è il viaggio di maturità, appunto un rito per tanti giovani che hanno sostenuto e superato con successo l'esame, a tutti loro complimenti e auguri, e questo viaggio diventa l'oggetto e il titolo del libro che adesso vi propongo di Deborah Gambetta, pubblicato da EL. Un libro che i ragazzi potranno portare nello zaino, ma che anche i genitori potranno leggere con utilità e con interesse. È un romanzo, questo on the road, di 3 ragazzi bolognesi, Ale, Becco e Lele, diversissimi tra di loro per carattere e interessi, ma che diventeranno davvero amici in un viaggio quasi occasionale provocato dalla fuga di una fidanzata che si cerca di recuperare a Gallipoli. Il viaggio, nonostante la brevità, sarà ricco di avventure, anzi si trasformerà in una storia, scrive l'autrice, assurda, una storia fatta di incastri e sfumature, fratture, di cose imparate e di cose perse, piccoli tasselli impazziti che cercano il loro ordine, un gigantesco flipper di palline che si scontrano, cose di altri che un po' diventano anche tue. Ma consentirà di cementare questo viaggio un'amicizia e soprattutto di scoprire sotto nuovi occhi situazioni e personaggi, una scoperta che si rifletterà poi in un modo diverso di guardare alla vita, come descrivono queste righe che adesso vi propongo. Di nuovo, c'è qualcosa di diverso in questa mattina. Il paesaggio attorno è cambiato all'improvviso. È cambiato come se il cartello che segna l'entrata nelle Marche non fosse solo un semplice cartello, ma un richiamo o una sottolineatura. Guardatevi attorno. Vedete? Questo è un altro luogo. Ma non è solo qualcosa che riguarda il paesaggio. Non è solo qualcosa di oggettivo. Le cose cambiano secondo il modo in cui si guardano, secondo lo stato d'animo. E forse questa sensazione di diverso non è fuori, nella forma del paesaggio, nell'inclinazione dei prati, nella sagoma degli alberi e nel colore del verde e della terra. Forse non è fuori, ma è dentro di me. Forse sono bastate le poche parole di ieri sera con Becco e quelle di stamattina con Lele per cambiare qualcosa, per cambiare il modo di assorbire le cose. Conoscere è metterci qualcosa di tuo, e la differenza tra ciò che è estraneo e ciò che non lo è proprio questa cosa che tu ci metti. È una cosa che dai in cambio, una sorta di tacito patto. E conoscere il segreto di Becco e il timore di Lele di essere considerato uno stupido li ha resi diversi da quello che credevo. Li ha avvicinati a me, li ha resi più intimi. Forse è per questa nuova sensazione di complicità che le cose attorno mi sembrano diverse. Forse più belle, o forse semplicemente più complete. E con questo ringrazio Daniele Casagrande e Vittorio Mussini in redazione, Giacomo Spunti in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it. Vi do appuntamento a domenica prossima e vi auguro buona settimana.